stiamo uscendo da Inta per andare a negli Urali. Il tempo è meravigliosamente bello, con 32 gradi sotto zero, è una cosa spettacolare, con montagne di neve che sembrano il Monte Bianco in miniatura. E finalmente davanti a voi gli Urali, distano pochissimo. Gli Urali, vediamo gli Urali, guarda, Gigi, è una cosa così bella anche se devo riconoscere che le ultime 48 ore sono state 48 ore durissime, abbiamo avuto due capottamenti importanti, una volta il Fram, che è uno dei nostri daily, ha in un percorso complesso con le due ruote destre, sono entrati in una specie di fossato di neve e si è messo proprio tutto laterale, per fortuna non abbiamo avuto danni perché si è appoggiato sostanzialmente sulla neve fresca. E ci abbiamo messo oltre 3 ore a tirare fuori questo mezzo, però ci siamo riusciti. Un lavoro immagino pesante nelle condizioni, ma dimmi, cos'è che in qualche modo produce questi ribaltamenti? Cioè la strada è stretta, la pista è stretta, raccontaci un po' meglio, aiutaci a capire. Sì, prima di tutto devi sapere che noi stiamo adesso andando nelle condizioni peggiori che tu puoi immaginare. Non c'è contrasto di luce, nel senso che tu cammini e guidi su un'enorme distesa bianca, dove tu non vedi il contorno o il profilo della strada. Tu vai e speri che la strada o la pista o quello che ti è sotto è sufficientemente duro da tenere i veicoli in condizioni orizzontali. Non riesci a vedere se a 20 centimetri a destra non c'è più questa durezza e ti trovi invece con 2 metri di neve fresca. E bisogna stare attentissimi, andiamo a 8, 9, 10 chilometri all'ora e ogni tanto ovviamente ci scappa lo scivolamento, come è successo un paio di volte, quando i veicoli grandi come il Tambo, quando i rimorchietti perdono aderenza, tirano giù la macchina e dobbiamo dedicare ore e ore e ore per recuperarli, perché non abbiamo supporti, siamo soli, siamo non c'è nessuno vicino a noi. Inta è una delle tante città di cui ci parlate, ci raccontate. Inta nasce peraltro, bisogna ricordarlo, come un gulag, come un campo di lavoro lungo la via tra Mosca e Vorkuta, da cui appunto Inta dista 2000 chilometri. Ditemi un po' l'accoglienza che avete avuto. Guarda, l'accoglienza che noi abbiamo dappertutto è straordinaria. La gente si ferma. Adesso noi abbiamo avuto una serie di problemi tecnici, come per esempio abbiamo spaccato gli ammortizzatori sui nostri carrelli e ogni volta che arriviamo in un paese dobbiamo cambiare questi ammortizzatori e devo dire che i giovani ragazzi che lavorano qui, quando ci vedono arrivare sembra che facciano la gara per fotografarsi con noi davanti ai nostri veicoli, sembriamo proprio dei VIP, la gente si avvicina, ci chiede gli autografi, poi abbiamo imparato ad andare in questi locali particolari che sono, noi li abbiamo chiamati ristoranti del popolo, che sono specie di mense aziendali dove si sta in coda insieme agli operai, insieme alla gente, noi con la nostra divisa di oltre facciamo delle scene incredibili e attiriamo l'attenzione in un modo spettacolare. A proposito, devo ringraziare i tuoi ascoltatori o chi legge il tuo sito, perché specialmente Francesca che ci fa le domande bellissime e mi piacerebbe rispondere a tutti uno per uno. Comunque attraverso il sito, attraverso la radio, mi raccomando, porgi a tutti il nostro caloroso saluto. Noi Radio 24 per noi è diventato un simbolo di collegamento con l'Italia. Diciamo che l'hai appena fatto tu, per cui sicuramente attenderanno le tue risposte. Molte le domande che appunto ti ho inoltrato anche via mail dagli ascoltatori. Prendiamone una, per esempio. Quanto consumate a lavorare, a sforzarvi, addirittura quando si tratta poi di tirare su un mezzo a 30 gradi sotto zero? Il consumo anche del corpo umano è molto alto. Certo, noi abbiamo due tipi di consumi. Abbiamo due tipi di consumo, uno è il consumo di calorie, no? Noi consumiamo tantissimo perché dobbiamo bere moltissimo, ti parà strano, ma noi abbiamo un problema che col freddo che c'è, noi abbiamo una dispersione idrica incredibile, beviamo dai 3 a 5 litri al giorno, abbiamo un paio di thermos sempre caldi. Una delle particolarità di questa spedizione, e Gigi devi sapere, che noi ogni mattina abbiamo il MAUD, perché tu sai che i nostri veicoli hanno tutti un nome, certo. Noi non li chiamiamo Bailey, noi li chiamiamo il MAUD o il FAM, che erano le due navi di Amundsen, e poi i quattro Massif, che sono il Milano, il Roma, il Torino, il Genova, e per noi ormai sono diventate le nostre case, no? Allora sul MAUD, dove abbiamo la cucina, al mattino Massimo e Elio ci preparano a tutti il nostro thermos, e prima di partire loro scendono giù con un sacchettino, dentro al sacchettino abbiamo i 6 pezzi di parmigiano reggiano e le 4 barrette di energetici che noi consumiamo nel corso della giornata. E poi nel MAUD alla sera, quando ci fermiamo intorno alle 17, loro preparano la cena, che noi peraltro mangiamo in due turni, facciamo due turni da 6, perché in questo momento l'equipaggio è composto da 12 uomini. Dici un po' delle notti, le notti all'addiaccio quasi, nelle vostre tende, nei vostri sacchapeli, come va? Sì, va bene, devo essere sincero, il nostro Fabrizio ha problemi di mal di schiena e soffre molto mal di schiena, lo stiamo curando tutti quanti, anche il nostro medico lo sta supportando, devo dire soffre molto. Bene. Noi dormiamo nelle maggioline, dormiamo nelle nostre tende e abbiamo queste termocoperte che è sotto il sacco a pelo, che dà una specie di tepore gradevole, e poi stiamo lavorando per fare un piccolo impianto con dei tubi che ci porta l'aria calda dell'impianto di riscaldamento che abbiamo interno ai veicoli, li infiliamo dentro la tenda e quando tutto va bene raggiungiamo lo zero gradi, e se devo essere sincero è gradevolissimo. Dentro i sacchi a pelo dormiamo bene, e certo non possiamo esagerare la cosa, bisogna godere quei momenti caldi che noi abbiamo, e devo dire la difficoltà è entrare prima nel sacco a pelo dopo esserti svestito, e poi diventa un pochettino impegnativo quando ti alzi al mattino perché c'era la matti e tu sei caldo, ti devi vestire, e sono momenti drammatici per ognuno di noi, però va bene, non... ce la facciamo. Però gli Urali sono lì davanti. Adesso un'ultima battuta: adesso avete di fronte una strada che vi porta appunto tra l'Europa e l'Asia. Tra l'altro so che quella è una zona con anche una storia geologica formidabile, c'è una montagna che si chiama il Picco dei Dinosauri, e anche se immagino che non ne vedrete, vi invidio già solo al pensiero. Insomma, siete veramente all'estremo confine dell'Europa. Sì, non solo, ma abbiamo deciso tutti che partiremo domani mattina all'alba e attaccheremo gli Urali. Noi non sappiamo com'è la pista il percorso degli ultimi 130 chilometri prima di raggiungere Salekhard, perché nessuno quest'inverno l'ha mai fatto, pertanto se siamo bravi saremo i primi, se non siamo bravi dovremo inventarci qualcosa di oltre. Naturalmente aspettiamo con ansia le immagini, il racconto lo aspetto io, gli ascoltatori che vi vogliono vedere e seguire, ci possiamo contare nei prossimi giorni? Contattici, oggi pomeriggio mettiamo su la parabolica e vediamo di mandare delle immagini dal nostro sistema satellitare. Tra l'altro dobbiamo ringraziare Telespazio perché ci sta dando una mano incredibile. Ecco, a proposito di Telespazio, allora chiudiamo su questo punto. Voi disponete di importanti immagini satellitari che vi anticipano, immagini satellitari nell'ottico e anche nel radar. Che cosa vi dicono queste immagini? Ma ci dicono tutto, noi sappiamo, abbiamo appena scaricato adesso stamattina dal satellite, abbiamo scaricato delle scansioni del percorso fino a Salekhard, e teoricamente noi possiamo vedere con un'approssimazione di 5 metri possiamo vedere praticamente il sentiero, il percorso che possiamo andare a fare. Il problema che noi non sappiamo e non conosciamo la profondità della neve in quel percorso. Noi vediamo dal satellite che tra gli alberi c'è una specie di tracciato, ma noi non sappiamo se c'è un metro di neve o 40 centimetri o 2,5 metri. Ecco, questo è il limite che noi dobbiamo andare a affrontare solo affrontando quel percorso. Bene, questo ce lo racconterete nelle prossime ore. Grazie a Petter Johannessen, lo ricordo, capo spedizione di Oltre, ormai in viaggio da quasi 2 mesi e proprio in questi momenti di fatto sul confine tra l'Europa e l'Asia. Torneremo con lui molto presto. Buon viaggio, Petter. Grazie, saluto a tutti.